16 marzo del 2016. Ricordiamo il sito internet che è www.ondarossa.info. L'indirizzo di posta elettronica è ondarossa@ondarossa.info e per quanto riguarda questo spazio, disorder@ondarossa.info. Il telefono 06 49 17 50. E questo spazio musicale ha anche una pagina Facebook, ossia prove tecniche di trasmissione /disorder. Cominciamo con il salutare la Next Place Sounds, nella specifica persona di Raffaele. Salutiamo FK Drone in ascolto e tutti quelli che potranno entrare in contatto con queste frequenze, con questa musica, con questa voce. Questa sera a 25 o'clock non andrà in onda per un suo piccolo infortunio personale, quindi probabilmente le trasmissioni in diretta termineranno intorno alle 22:30, almeno di sorprese dell'ultimo momento. Si va ad iniziare e lo facciamo con Stefano Diserio, aka Like Awake, progetto storico di Dark Ambient proprio qui di Roma, fedele anche ascoltatore di questi spazi. Ed abbiamo qui il suo ultimo lavoro, Fall of the Corrupt, un lunghissimo drone di circa 70 minuti che chiaramente andremo a sentire in sezioni, già che capirete da soli che sentire per un'ora in maniera consecutiva tutto questo disco è impossibile. Cercheremo quindi di non mortificare troppo quest'opera, la manderemo a tratti. Cominciamo con l'ascoltarla comunque dall'inizio, una decina di minuti giusto per assaggiarla. Fall of the Corrupt, Like Wake. Your engine is on. Intanto salutiamo Jim dal Canada e Ranji da Berlino, qui su Note di Like Wake. Stefano Di Serio, in attività dalla metà degli anni Ottanta. Fino al 1989, poi circa 10 anni di silenzio, per poi ritornare nel 2011, anzi 20 anni di silenzio addirittura, sì, 20 anni, per ritornare nel 2011 con Mother Number 2 e poi una serie di opere che abbiamo apprezzato qui in prove tecniche di trasmissione, compreso questo Fall of the Corrupt, una lunga traccia di 70 minuti che sentiremo pian pianino in almeno 3 segmenti anche nelle prossime settimane. Quindi composto, eseguito, prodotto da Like Wake e Stefano Di Serio attraverso la Septic Noise, etichetta proprio di del buon Stefano. Le astratte sonorità dilatate di Like Wake che hanno aperto prove tecniche di trasmissione per oggi, 16 marzo 2016. UK Experimental Underground System Survey, ennesimo compendio ideato da Raffaele Pezzella, questa volta un compendio che va ad analizzare in maniera molto attenta la scena sotterranea inglese, anzi britannica per essere più precisi. Oggi tocca a David Stevens e questa è A Sudden Gust of the Wind. Went out. Blackness fell as I did. But yet I flip. flicker in the dark, one thing, another, nausea and a skull full to stiffen. Quivering from the inside out. Sì, abbiamo iniziato con Like Awake, quindi con un ascolto per così dire siderale. Questa traccia di Daddy Stevens non è sicuramente da meno. Daddy Stevens che salutiamo, già che leggiamo che è anche all'ascolto. Artista molto interessante che alterna anche strumentazione per così dire analogica con queste partiture anche vocali, compresa questa sua traccia Sudden Gust of the Wind. estratta da UK Experimental Underground System Survey, questa interessantissima compilation ideata, congegnata, prodotta da Raffaele Pezzella. Un saluto anche ad Alessandra, una new entry per quanto riguarda prove tecniche di trasmissione, e anche Sisto, lui invece vecchia conoscenza di questi spazi e del gruppo stesso di Unexplained Sounds. Nausea and a skull sort of splitting. Torniamo in Italia, lui è Raffaele Cerroni, eminenza grigia della scena sperimentale italiana, più che altro conosciuto come Mushroom Passions, ma invece negli ultimi anni ha anche intrapreso una via parallela che porta il nome di Microloop. Qui abbiamo una serie di tracce sparse estratte più che altro dai numerosi EP composti dal buon Raffaele, e questa sera già è partita questa Free Tonkel Shadows Overture. Thank you. Era dunque una traccia abbastanza lunga per quanto riguarda Microloop del maestro Raffaele Cerroni, si chiamava Three Talking Shadows. Non a caso, tra parentesi, Overture, uno degli episodi più lunghi e in media più ossessivi per quanto riguarda Microloop, e forse il nome Microloop non è neanche del tutto casuale per il buon Raffaele Cerroni. Un Raffaele Cerroni che salutiamo perché sappiamo che in questo momento connesso qui con gli 87.9 di Radio Onda Rossa, con prove tecniche di trasmissione, uno spazio che ricordo esistente ormai dal lontano 1992, che tratta di industrial, elettronica, dark ambient, sperimentazione in genere. Per quanto riguarda Microloop, anche le prossime settimane andremo ad apprezzare altri passaggi per questo progetto italiano, e in Italia continuiamo a stare. Lui è Raimondo Gaviano, in arte Svart Hen. Ricordo una parola mutuata dallo svedese che vuol dire oscurità, e N vuol dire uno. Abbiamo qui l'ultimo lavoro del 2014, un lavoro che si chiama Ardat Lili e che ha come tematica principale la lotta per l'autodeterminazione del popolo palestinese. Ed è questo che è dedicato a Ardat Lili di Svart Hen. Oggi ci ascoltiamo Clisma Bissau in combutta con Le Cose Bianche e poi un'altra traccia dal nome Alu. ancora Svarten, sui quali andiamo a salutare Francesco in ascolto, e credo e vorrò essere smentito che sia la prima volta per quanto riguarda prove tecniche di trasmissione. Inoltre salutiamo Aerobus Dark dalla Russia, Carlos Alberto da Buenos Aires, e ancora ringrazio di nuovo Raffaele che ci mette in collegamento con disparati posti nel nostro globo, connessi tutti in questo momento con Onda Rossa attraverso il www.ondarossa.info. Ancora Svarten, questa è Alu. Un paio di passaggi per Raimondo Gaviano, artista sardo, sotto lo pseudonimo Svart N. Ardat Lili, album di 2 anni fa che usciva per questa etichetta rumena dal nome Mask of the Slave. Un paio di episodi decisamente anomali rispetto all'andamento dell'album, più votato all'etno, all'ambient e un certo modo di essere tribale. Qui invece i ritmi sono più convulsi e tesi. Andiamo avanti, 21:56, onda rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Un saluto anche a Raffaella in ascolto qui da Roma. Eccoci qua in Germania con Dresden 45, Dresden 45. Album con materiale d'archivio che va dal 93 al 99. Lui è Marcel Mulak. La traccia in questione è Fire Destroyed the Rest of the Corpse, Dresden 45.